agli anni compresi tra il 2005 e il 2010. Davide Boni è un pezzo grosso della Lega che sulla 7, a proposito del partito, diceva così: siccome io sono 21 anni che sono militante della Lega Nord e continuo a credere alle posizioni espresse dal mio segretario federale, che se mi dicono che questa giacca è bianca, se Bossi mi dice che questa giacca è bianca, molto probabilmente io sarei qui a convincervi che è bianca. Se fosse confermata, questa storia di mazzette andrebbe ben oltre la truffa. Ci sarebbe anche un che di strafottenza. Sembra che Davide Boni i soldi se li facesse portare nell'ufficio della regione. I magistrati dovranno capire se esista davvero un sistema Lega delle tangenti. Nel frattempo i leghisti però dovranno capire che partito è diventato la Lega e soprattutto qual è la caratura politica degli esponenti del partito. Il tema dell'illecito delle mazzette è entrato in maniera prepotente nella testa dei lombardi. Per farvi capire quanto, vi citiamo solo un gioco, un test che si fa su internet dal titolo Indovina chi non è stato indagato. Questa legislatura ha meno di 2 anni e Davide Boni è il 4º componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo a restare impigliato in un'inchiesta su malaffare e mala politica. Dei 5 membri originari, soltanto uno, il segretario Carlo Spreafico del PD, non ha ricevuto avvisi di garanzia. Per il resto, la clamorosa indagine su ex Area Falc Milano Serravalle ha portato alle dimissioni di Filippo Penati, del PD, che era vicepresidente, e dopo Penati Franco Nicoli Cristiani, anch'egli vicepresidente ma del PDL. Poi è stata la volta di Massimo Ponzoni, sempre del PDL, altro segretario del Consiglio. Ora tocca ai leghisti. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Torniamo domani alle 6.30 con un reportage sui 10 anni della morte di Raffaele Ciriello.